Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Pare che un immigrato senza permesso di soggiorno, ergo immigrato irregolare, ergo un clandestino, possa utilizzare il nostro servizio sanitario senza temere le conseguenze del suo status e quindi di essere rimpatriato. Pare che un immigrato irregolare possa utilizzare per i propri figli quello che resta del nostro disastrato sistema educativo, senza temere di essere scoperto e quindi rimpatriato. Se un immigrato senza permesso di soggiorno può far questo, mi spiegate cosa lo distingue da uno regolare? E cosa lo distingue da un cittadino che paga le tasse? Ha ragione Fini quando dice che non si può identificare il clandestino con il delinquente. Ma il clandestino non sta forse fuori da quello che si chiama il contratto sociale? E allora, perché può usufruire dei servizi offerti alla collettività come un qualsiasi cittadino regolare? Giuseppe Caserta. Riguardo quello che ha detto Franceschini, che parlando della proposta di legge che prevede che chiunque venga a conoscenza che una persona è clandestina debba denunciarla, l'ha paragonata alle leggi razziali. Bisognerebbe ricordare allo stesso che questa legge esiste già. Infatti, come comune cittadino, ogni volta che vengo a conoscenza di un fatto contro la legge, devo denunciarlo, salvo diventare omertoso e quindi complice dello stesso fatto delittuoso. Inoltre, se affitto a degli extracomunitari, devo denunciare il tutto con ben due moduli distinti di denuncia, e cioè uno per l'antiterrorismo, l'altro proprio per gli extracomunitari, dove devo dichiarare anche a quale titolo cedo l'immobile, pena pesanti sanzioni anche penali. È naturale che se affitto un appartamento, devo chiedere ai miei futuri inquilini se sono in regola o meno con il permesso di soggiorno. E dunque? Certo, se non lo fossero, non li denuncerei, ma nemmeno affitterei loro l'appartamento. Perché se per spirito caritatevole o mosso da pietà lo facessi, correrei dei rischi. Paolo Lecco. Da anni si dibatte sul fatto se la clandestinità nel nostro paese sia per motivi umanitari accettabile, al punto di diventare normale, così come ora accade. Il mio parere in proposito è contrario a ciò. In quanto se la nostra società accetta una deroga ad una legge precisa che vale per tutti, allora perché noi italiani dovremmo attenerci a tutte le altre leggi o regolamenti che ci governano e che vengono, se scoperte, debitamente perseguite? Perché sono tenuto a mostrare i miei documenti a richiesta, quando altri vivono nell'anonimato più assoluto, beneficiando però di tutte le assistenze consentite ad ogni abitante? Perché devo pagare tasse e infiniti balzelli che altri non pagano, in virtù della clandestinità, alimentando giri d'affari mafiosi? Ai nostri governanti passo questa mia proposta. A tutti i clandestini onesti sia data la possibilità di avere un documento di identità temporaneo, che consenta loro, ad esempio per un anno o anche più, di trovare lavoro e sistemazione nel nostro paese. Trascorso questo periodo se ne devono andare, magari con un incentivo da stabilire. O, se pescati senza essere in regola, devono andare in prigione per un certo periodo, come per un qualsiasi altro reato, e poi devono essere espulsi. Così si rientrerebbe completamente nella legalità e nella chiarezza di rapporti, mandando nel contempo un chiaro messaggio di serietà ai milioni di migranti che aspirano a venire nel nostro paese. Fabio. Nel caso degli stranieri irregolari, la situazione è realmente preoccupante. Siamo arrivati all'assurdo. Il pediatra di mio figlio dice di non sapere se i bambini stranieri qui in Italia abbiano le vaccinazioni obbligatorie oppure no. La scuola non può, per motivi di privacy, richiedere le vaccinazioni e comunque agli irregolari non si può chiedere nulla, altrimenti si viene tacciati per spie fasciste. In un'epoca in cui molte vaccinazioni che facevamo noi genitori non si fanno più, i nostri figli vanno a scuola assieme a bambini fuori dal controllo sanitario e sulla cui situazione sanitaria nessuno sa nulla. Poi non stupiamoci se un giorno nel nostro paese torneranno malattie scomparse contro le quali non abbiamo ormai più difese. Io non sono un razzista e do lavoro ad alcuni stranieri che sono i primi a volere regole precise. Riccardo. Credo si debba sottolineare che le veline, o presunte tali, hanno diritto a essere rispettate. E resta da dimostrare che i politici che frequentano il Parlamento siano migliori dei giovani che si affacciano alla politica. Ben vengano volti nuovi che non siano stati allevati dai mestieranti della politica. Felice. Vivo in Portogallo da 8 anni e garantisco che qui le battute sulle gaffe e le originalità di Berlusconi sono costanti. Del tipo, ma hai sentito l'ultima del tuo primo ministro? Ma non hai dei consulenti per la comunicazione, eccetera. E gli amici mi prendono in giro. Spesso le stravaganze del primo ministro sono riprese dai telegiornali e raccontate con sorrisini e strizzatine d'occhio davvero insopportabili. Del tipo, ma vedi tu questi italiani che mattacchioni. E questo mica soltanto in ambienti di sinistra, magari. Non dico che la cosa mi metta in imbarazzo, ma insomma, non è il massimo. Davide. Vivo da 25 anni in Olanda. Sono un manager, lavoro nella giustizia. Mai come in questi ultimi mesi vengo quasi giornalmente confrontato, in quanto italiano, con le esternazioni quotidiane del nostro premier. A me dà fastidio. Arturo. Vorrei che quelli che sostengono che in Italia non ci sia libertà di stampa mi trovassero un giornalista che lavora in Rai o in Mediaset, piuttosto che su un giornale, che ammetta di non essere libero di scrivere quello che vuole o che abbia subito pressioni dirette o indirette da Berlusconi. Non mi pare che in Rai parlino solo di persone di destra, anzi, mi pare che la maggioranza sia di tutt'altro orientamento. Posso capire che Berlusconi, a livello teorico, potrebbe condizionare la maggioranza delle televisioni, ma nella realtà questo non accade. Anzi, mi pare che sia il contrario. Pietro. Sono sempre più convinto che una parte di italiani sia malata. Sì, malata di berluscofobia. Impegnano tutte le loro energie per combattere Berlusconi, mentre dovrebbero impiegarle per sconfiggere la loro malattia, la berluscofobia, appunto. Per quanto riguarda il premier, ancora una volta si identifica con l'italiano medio. Se chiedete in giro, troverete che chiunque, avendo a disposizione molte donne, cederebbe volentieri alle tentazioni. Luciano. Gentile signor direttore, ho letto che un commesso del Senato è recentemente andato in pensione con 8.000 euro al mese alla giovane età di 52 anni. Ed è il più recente protagonista di un inarrestabile e costosissimo esodo. Leggendo il bilancio di previsione 2009, approvato il 21 aprile dal Consiglio di Presidenza di Palazzo Madama, si scopre che, negli ultimi 2 anni, i costi per pagare le pensioni sono letteralmente esplosi. Vedere come il nostro bravo Stato cerchi di spingere, o meglio costringere gli italiani a congedarsi dal lavoro a 65 anni e poi leggere notizie del genere fa rabbrividire. L'azienda Italia, con un eccellente imprenditore al comando, non dovrebbe consentire casi come questo del commesso dello Stato. Nessun politico di qualunque schieramento si è degnato di rispondere al mio fastidioso richiamo alla moralità, dopo che ho inviato centinaia di lettere in tutte le direzioni, contestando i famosi 2 anni e mezzo che danno diritto al vitalizio a onorevoli e senatori. Neanche il grintoso Beppe Grillo mi risulta abbia raccolto firme per quello che dovrebbe essere il primo capitolo di spesa da eliminare. A capochino fanno tutti quanti le orecchie da mercante, provando forse imbarazzo di fronte ad una vergogna nazionale che dovrebbe essere sbattuta in prima pagina ogni giorno. Marco, Parma. Volevo esprimere alcune opinioni sulla politica di oggi, senza andare a toccare quello che sono le persone che fanno la politica. Il nostro è un paese di lavoratori, di persone che sgobbano 15 ore al giorno per mandare avanti la famiglia e che non hanno tutto questo tempo per potersi informare diversamente che tramite la televisione. Internet è un bacino immenso di conoscenza, ma solo se maneggiato con cura, altrimenti potrebbe rivelarsi dannoso. Parlo dell'informazione perché, secondo me, il malessere dell'Italia e della politica proviene anche dall'informazione. L'informazione è pilotata da interessi di pochi, interessi che raramente coincidono con i bisogni degli italiani, e questo non viene mai detto dai telegiornali. Non viene mai detto che in Parlamento magari si è discusso di togliere l'onorario pazzesco dei notai sulle compravendite e non ci si è riusciti per chissà quale motivo. Noi italiani dovremmo svegliarci da quest'incubo, aprire gli occhi e mandare a casa tutta questa gente che ha rovinato il nostro paese. Il loro modo di governare ha fatto sì che la corruzione, il malaffare, la poca trasparenza, I complotti, gli scambi al potere, i compromessi personali e gli affari propri abbiano soffocato la nostra economia. Se non torneranno al centro dei nostri dibattiti la questione morale, l'etica, l'umanità, l'umiltà e il senso dello Stato, non cambierà mai nulla. Non cambierà mai soprattutto la sensazione di sentirsi abbandonati dallo Stato, pensiero molto diffuso nella popolazione, dai ragazzi fino agli anziani. Concludo col dire che naturalmente non si può fare di tutta l'erba un fascio e tengo a sottolineare che ci sono tanti italiani che sono sani di principi e con un cuore immenso, ma sono proprio quelli che si sbattono 15 ore al giorno per mandare avanti le loro famiglie e non hanno proprio il tempo di mettersi a disposizione dello Stato. Fabio, Catania. In un telegiornale scorrono le immagini relative all'ennesimo episodio di bullismo scolastico avvenuto in un istituto di una cittadina laziale. Sullo sfondo, il muro della scuola in questione, orrendamente imbrattato con bombolette di vernice. Poi, l'intervista ad una professoressa che sembra caduta dal pero. Non sa capacitarsi la poveretta di come sia potuta accadere una cosa simile. Un tentato e premeditato omicidio portato a termine con un coltello da cucina da uno studente sedicenne per banali motivi. Evidentemente quell'insegnante non si è mai fermata a riflettere sul perché i muri della scuola in questione fossero stati lordati fino all'ultimo centimetro da scritte e sgorbi di una disarmante idiozia. Un chiaro indice del livello intellettuale degli studenti che frequentano quel tempio del sapere. Di cosa si meraviglia quella professoressa? Carlo. Ma dov'è la sinistra per l'uccisione della ragazzina da parte dei nostri soldati in Afghanistan? Per la sgrena e Calipari c'era stato un casino tremendo. Purtroppo la guerra è ingiusta e i vivi lo sono ancora di più. Mauro. Caro direttore, avrei due domande da farle. La Fiat sta usando soldi veri per i suoi acquisti oppure stiamo ancora parlando di finanza creativa? E se sta spendendo soldi veri, dove li ha presi? Visto che ormai della crisi sappiamo come è nata e come si evolve, ci sono già accenni di come morirà? Mi piacerebbe cominciare a sentire previsioni e consigli per il dopo. Lei potrebbe aiutarmi? Rudy. Caro Rudy, nelle ultime righe del comunicato ufficiale diffuso domenica scorsa sull'accordo tra Fiat e Chrysler è scritto: l'alleanza permetterà al gruppo Fiat e Chrysler di trarre beneficio dalle rispettive reti commerciali e industriali e dai rispettivi fornitori globali. L'alleanza, è scritto ancora, non prevede per Fiat alcun esborso di cassa verso Chrysler né impegni a finanziare Chrysler in futuro. E quindi nessun trasferimento di denaro avverrà tra Torino e Detroit, anche perché, così come nel caso Opel, non si tratta di un acquisto, ma di un'alleanza, in cui Fiat avrà certamente un ruolo di guida, ma in cui ci saranno altri soci importanti. Fiat apporterà la sua tecnologia, il suo marchio, la sua rete di vendita, e così faranno Chrysler e se andrà in porto il progetto anche Opel. Per quanto riguarda la crisi economica, abbiamo una certezza. Anche questa finirà come sono finite tutte le altre crisi che hanno contrassegnato il cammino dell'economia mondiale. Il problema è vedere quale sarà il prezzo finale e chi lo pagherà in misura maggiore. Tutti ormai danno per scontato il fatto che il 2010 sarà un anno di ripresa, ma di lenta ripresa. La vera sfida sarà quella di allargare il mercato mondiale, di distribuire più equamente le ricchezze del mondo, perché in questa economia globale sarà la crescita dei paesi poveri ad aumentare quella che gli economisti chiamano la domanda globale, aiutando così anche i paesi ricchi a superare le loro crisi. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.